Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La chiamano ludopatia, ma potremmo definirla droga da gioco d'azzardo. Ogni anno colpisce più di 400.000 persone ed è in continua crescita. Di fronte a questa emergenza, una banca dell'Emilia-Romagna ha preparato un vademecum ed un codice anti-azzardo distribuito ai suoi 12.000 dipendenti perché gli stessi impiegati possano individuare, ad esempio da prelievi massicci effettuati all'inizio del mese, potenziali giocatori patologici. Nella circolare, infatti, si spiega come riconoscere un giocatore affetto da ludopatia e come poter intervenire, garbatamente, nei suoi confronti ed in quello dei suoi familiari. Non solo, oltre a non mettere nelle filiali biglietti di lotterie e tagliandi, nella circolare sono indicati ai dipendenti siti internet e riferimenti utili per individuare sul territorio centri di aiuto e strutture di assistenza. Ma per evidentemente per accorgersene bisogna avere il problema in famiglia o subirlo sulla propria pelle, perché tra i tanti mali che affliggono il paese, quello della ludopatia in realtà è percepibile soltanto quando partono campagne sui giornali, quando qualcuno ne parla, quando qualcuno confessa che in realtà quel problema ce l'ha un marito, un fidanzato, un parente, un figlio e via dicendo, perché non è un problema socialmente così evidente come potevano essere altre dipendenze molto gravi. Una volta o ancora ogni tanto capita di vedere la persona ubriaca per strada, capitava di vedere un drogato accasciato in un giardinetto, ma il ludopate come si vede? Beh, si vede, date un'occhiata nei bar, normalmente non ci si fa caso, uno entra, prende il cappuccino, paga il banco e se ne va. Alle spalle però c'è l'angolino delle slot machine. Per chi non è interessato a, diciamo, al servizio, alla prestazione, è un angoletto con delle luci e con del rumore, fine, non ci si pensa. Ma probabilmente per il ludopate invece è una sorta di attrattiva, è come una forma di formaggio per un topo, anzi per una enorme schiera di topi che va lì e lì e consuma quelle che sono le risorse della sua vita, risorse economiche, risorse pratiche e anche risorse psicologiche e psichiche. Non riesco ancora a capire, tra tanti argomenti che mi capita di trattare in maniera ricorrente, quale potrebbe essere un saggio punto di vista rispetto al gioco d'azzardo. Da un certo punto di vista mi verrebbe da dire, da persona estremamente contraria ad ogni tipo di divieto, di proibizione riguardo ai consumi che ognuno fa per soddisfare la propria gioia, il proprio istinto, quindi vorrei dire chi vuole giocare, se è adulto, una volta che ci siamo regolati e messi in pace sul fatto che minorenni, persone non in grado di intendere e volere, persone con delle fragilità non diventino schiavi del gioco d'azzardo, poi ogni adulto ha diritto di fare quello che vuole, ma normalmente su questo però qualcuno mi eccepirà il fatto, cioè, ma guarda che è una malattia, guarda che è una patologia, e sono persone che vanno aiutate, vanno seguite e soprattutto se continuiamo a mantenere vivo l'oggetto della tentazione è naturale che poi queste persone continueranno a caderci dentro. E a fare questo non può essere proprio lo Stato, sì, ma lo Stato incassa 8 miliardi all'anno su questa vicenda. Sono soldi sporchi, soldi bagnati di sangue, di sofferenza e di dolore, o sono soldi illecitamente incassati su quella che è una delle attività che tutti gli stati del mondo esercitano, e immaginando che le persone scelgano la loro coscienza come rovinarsi la vita. Non bisognerebbe vendere più vino, non bisognerebbe naturalmente bisognerebbe coprire tutti gli esseri umani che in sé sono portatori di fascino o di attrazione per togliere dall'umanità tutte le tentazioni all'uscita dalla regola, ma sarebbe un'umanità tristissima. Nel gioco vale questo tipo di pensiero oppure bisogna realmente prendere mano alle leggi e cercare di regolare il sistema? Voi come la pensate? 800 24 00 24. Melog. Cronache meridiane. Giocano al Superenalotto, il lotto e i gratta vinci da 20 di qui di là. È la malattia del giocare e poi dopo guardano i miei prezzi, oddio no. Cioè, si comprano la mela bacata, però devono giocare. una signora che si è rovinata con il gioco. Ha giocato Gratta e Vinci, Lotto, pensione intera, affitto di casa, e quindi ha... Fabio Felici, buongiorno. Buongiorno. Fabio Felici, direttore di Agimeg, agenzia giornalistica sul mercato del gioco. È un esperto di tutto ciò che accade nel mondo del gioco. Naturalmente lui scrive di gioco, quindi probabilmente il suo punto di vista non è un punto di vista così terroristico come quello che leggo oggi su varie pagine di giornali. La sintesi è questa, Fabio, confortami o se no spiegami meglio, che insomma lo Stato, te la sintetizzo in maniera radicale, ha creato una sorta di groviglio fra leggi, regolamenti e sentenze per cui nulla cambi, quindi continueranno a esserci tante slot machine, non saranno rispettate le regole di promiscuità, non so, alle scuole, alle chiese, poi non so cosa c'entra le chiese, i cimiteri, non vedo a chi può dar fastidio una slot machine accanto a una chiesa, a un cimitero. Comunque, detto questo, è vero realmente, non ci sono leggi, lo Stato da una parte diciamo incrementa il gioco e poi si salva la coscienza aprendo iniziative per curare i ludopati? Diciamo che le cose non stanno proprio così, nel senso che c'è molta disinformazione sul gioco. In questo senso il vero problema è il rapporto con gli enti locali, con comuni e province, perché ad oggi ogni comune e provincia è legittimato a emanare una legge sul gioco come vuole. Addirittura ci sono comuni dove le slot non si possono mettere vicino agli stabilimenti balneari. Tu parlavi giustamente prima che vicino a un cimitero che fastidio può dare, magari non sarebbe bello metterla proprio lì, ma non davanti a dove si comprano i fiori, chiaro, ma se c'è un bar nel raggio di qualche centinaia di metri da un cimitero niente di male, ma perché da uno stabilimento balneare, ecco, quale sarebbe il problema? Quindi stiamo scadendo veramente nel ridicolo. Il problema è che oggi un comune accetta le slot, un comune non accetta, un comune premia chi non le fa mettere, addirittura con sgravi fiscali. Ma la legge dello Stato cosa dice? Che materia che tocca alle regioni occuparsene? Sì, perché adesso diciamo è previsto nell'ultima legge di stabilità, quella del 2016, quindi quella che sta andando adesso in atto, che entro il 30 aprile la conferenza Stato-Regioni, attraverso la mediazione del sottosegretario alle finanze Pierpaolo Baretta, dovrà arrivare a un punto d'accordo con una legge nazionale, cioè un regolamento che vada bene per tutti, perché sennò non se ne esce più veramente, c'è un ricorso al TAR, al Consiglio di Stato ogni 5 minuti e qui non si fa mai giorno. Già il gioco sembra il male del terzo millennio, perché l'Italia, la disoccupazione cresce e tutto quanto, perché sembra che il gioco sia diventato il male del terzo millennio. Io parlo come giornalista, è vero scrivo di gioco, ma non ho un'agenzia di scommesse, non ho un sito, non ho niente che mi riguardi, quindi è proprio come cittadino che vedo tanta disinformazione e quindi spero. Ma il famoso piano Balduzzi del 2012, che ha previsto tutte le distanze, i luoghi, via dicendo, è stato diciamo demolito dalle sentenze oppure... È stato demolito da una sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato del 10 febbraio del 2015, che praticamente legittimava i governi del territorio di fare quello che gli pare, fondamentalmente la semplifico. Quindi dobbiamo stare a quello che succede. C'è il territorio di Bolzano dove di fatto stanno levando le slot, poi mi viene da ridere perché una bolzanina doc come Tania Cagnotto è testimonia di un'azienda di gioco legale e il suo comune è uno tra i più restrittivi proprio in questo senso. Quindi capita veramente... Ma in nome di cosa c'è la restrizione? Di un principio etico morale superiore o ci sono dei problemi proprio di tipo pratico economico? Si parla di salute pubblica, quindi queste macchinette mangia cristiani, mangia coscienze, mangia portafogli, devono assolutamente scomparire. Addirittura, ripeto, ci sono comuni come, ecco, stamattina c'è il comune di Fiume Veneto in provincia di Pordenone che ha proposto agli suoi esercenti delle agevolazioni fiscali se non metteranno delle slot. Quindi diciamo, mi sembra aver capito, Fabio, che esiste proprio una sorta di battaglia etica contro le slot. Sono state individuate come degli oggetti di perdizione. Poi adesso vediamo quanto questo corrisponda a una realtà. 800240024, avete un'esperienza, avete un punto di vista, siete esercenti di bar, siete clienti, avete un marito, un fidanzato, un amante, un padre, un nonno, un figlio. Parlo di uomini perché non so quanto sia diffuso anche tra le donne l'uso e l'abuso della macchinetta. Beh, chiamateci 800240024. Daniela Capitanucci, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, è socia fondatrice dell'AND, Azzardo e Nuove Dipendenze, un'associazione che si occupa proprio della materia di cui noi stiamo trattando. il vostro punto di vista mi sembra chiaro dalla ragione sociale dell'associazione che lei ha fondato. Voi siete quelli che pensate che debba essere messo una sorta di divieto radicale e soprattutto generale con una legge dello Stato nell'abuso che viene fatto, perlomeno nella deregulation totale, nell'uso delle slot machine. Allora, la questione è proprio incentrata sulla salute pubblica, come prima si stava dicendo. La raccolta in giochi pubblici l'anno scorso era di circa 88 miliardi di euro e circa la metà di questo era fatturato delle slot machine. Quindi un volume importante di denaro che è stato speso dai cittadini in questa forma di divertimento, mettiamola pure così. Però scusi, non è lecito che uno i soldi se li spenda come vuole, se non se lo spende divertimento. La questione è chi sono i clienti che danno luogo a questo fatturato, perché se i clienti che danno luogo a questo fatturato sono cittadini che si possono permettere di spendere questi soldi, sono assolutamente d'accordo con lei. Sono d'accordo, sì. Però se per caso invece questo fatturato deriva dalle tasche di persone che non possono permettersi di spendere questi soldi, allora la questione è un po' diversa, perché quando si parla di salute pubblica vuol dire che noi non ci interessiamo soltanto alla salute del giocatore, che appunto tutto sommato potrebbe decidere, no, di farsi del male con le proprie mani, ma di tutte quelle persone che gravitano intorno al giocatore, in primis i familiari, quindi mogli, mariti, figli, genitori, fratelli, sorelle, chi più. Lei sarà fatta sicuramente un'idea sulle tipologie, diciamo, più a rischio, perché vista in termini astratti teorici, per questo aperto dicendo che in fondo è un problema che non è così immediatamente percepibile da tutti, bisogna entrare dentro, perché le persone se ne stanno rintanate nei bar, uno non le vede, se non c'hai qualcuno che conosci che c'è passato in mezzo, pensi, dice, ma saranno fatti loro. Ecco, lei dice che sono le persone non se lo possono permettere, ma cos'è? C'è una sorta di pubblicità selvaggia, di allettamento generale, che la gente pensa che quella può essere una risorsa. Una volta che uno c'è dentro non ne esce più, perché dà gusto, come tutte le cose che fanno male danno anche molto piacere, chiaro. È un fenomeno estremamente complesso, per cui sarebbe riduzionistico dire che c'è soltanto una causa, quindi che la causa è certamente soltanto la slot, certamente solo il mercato capillare in ogni dove, certamente soltanto personaggi vulnerabili oppure la crisi economica. Davvero credo che la complessità delle cause renda difficile. Però è un po' tutto, è un pochino di ogni cosa che lei ha elencato. È un pochino di ogni cosa che noi abbiamo elencato, però se dal 2013 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha incluso questo fra i disturbi di dipendenza, un pensiero lo dovremmo fare, perché noi sappiamo in generale che tutti i disturbi di dipendenza hanno una caratteristica comune, a prescindere che ci siano sostanze d'abuso oppure no, che è quella che una volta strutturata è estremamente poi difficile tornare indietro, no? È difficile smettere di fumare se io ho cominciato, è difficile smettermi di usare cocaina o eroina se ho cominciato, è difficile smettere di giocare d'azzardo se io ho sviluppato una dipendenza. È una chimica che si crea nel nostro corpo, siamo abituati a certe sostanze che noi stessi secerniamo. Un attimo solo, Daniela Capitanucci, abbiamo un ascoltatore, Franco può aiutarci a elaborare meglio il pensiero. Franco, buongiorno. Buongiorno. Io parlo del giocatore pentito, disastri ne ho fatti, mi sto risollevando, è stata una cosa dura. Ecco, però mi racconti l'iter del gioco, però faccia capire, giocava come, dove, quanto, in che maniera? Allora, nei vari locali, fatalità, facevo un lavoro, tra virgolette, qui frequentavo parecchi locali e giocavi i 100 euro, i 200, i 300, i 500, una giornata di giocare 5, 6, 7, 8, anche 1000 euro. Ma al con giorno, le macchinette giocava lei? Con le macchinette, bravissimo. Cioè con le slot machine, quelle che vedo nei bar? Bravo, perché sembra una cavolata, che allora tra le altre cose, quei tempi riceveva anche tranquillamente le banconote, adesso vanno qui il monitor 2 euro. Ma lei i soldi non li prendeva? Cioè li prendeva dalle sue risorse? Dalle mie risorse mi sono trovato anche ad usare altre risorse, quindi soldi non miei. Ma mi faccia capire, lei giocava perché sperava di diventare più ricco? O no, quando uno no, comincia no. a giocare è come tante altre cose che ci piacciono tanto, che se uno le frequenta troppo non ne esce più? Posso dire che c'è l'assurdo, che per caso eri quasi più contento quando perdevi, perché potevi dire, cavolo, ho perso 500 euro, ho perso 600 euro. Cioè, si arrivava proprio l'assurdo. Ho fatto anche un percorso psicologico per questo, che mi ha abbastanza aiutato, cioè non lo facevi nemmeno per vincere, per i soldi, giuro, non contavano i soldi, è veramente duro da dire. Fino a che punto, fino a che punto lei si è rovinato, cioè quando hai capito che non poteva farlo più, non poteva più andare avanti? Oh, quando ci ho rimesso la famiglia. Perché la famiglia l'ha mollato a un certo punto. Esatto, sì. Quindi, ma cosa le hanno detto? Cioè, stava rovinando la sua famiglia? Quando hanno visto estratti conto, figli, un disastro. Era meglio un amante, forse, ha pensato sua moglie. Alla fine. Sì, me l'ha detto. Una delle cose che ha detto, sì, potevi almeno... poteva finire la storia, magari con un'altra, ma per le macchinette. Ho sbagliato, ho fatto il mio percorso. Adesso che sta facendo? Come si sta ritirando su? Come no, se ne esce? Lavoro, continuo a lavorare, fatalità l'azienda per cui lavoravo allora, in cui ho fatto danni, ma hanno anche ripreso perché credo essere anche una brava persona, e mi ha aiutato, mi sta aiutando il lavoro, e logicamente è il solito discorso, bisogna essere anche coscienti di avere un problema. Ma lei quando entra in un bar, vede la slot machine, c'ha ancora voglia di metterci soldi dentro? Sì. E riesce a resistere? Sì. Sì. Titubante. No, è un sì, perché diciamo che non ci ho più messo nemmeno un euro per raccontare una balla. Ho magari giocato di 5 euro, di 10 euro. Sì, l'ho fatto. Però, cioè, veramente, prendo il caffè con i 5 euro, mi danno 4 euro di monete, li butto, boh, finita lì, basta, per la giornata, basta, ho già dato. Punto, ma... È molto difficile. Franco, prego. Capisci che è molto difficile poi capire, se uno non ci passa, io sto cercando di sforzarmi a entrare nella mentalità di questa cosa qua, se lei mi dicesse, guarda... Io vorrei aiutare quelli che hanno un problema, vorrei aiutarli, cioè, a me la psicologa, mi ricordo, mi diceva, guarda, quando esci di casa, esci senza soldi, esci senza carte di credito, esci senza bancomat, sai che quei giorni ti servono 20 euro per mangiare o per prenderti sigarette, esci con quei soldi lì, cioè, ti facevi anche una violenza... proprio psicologica. La stessa cosa che si dice a un drogato comunque o un alcolista. Bravissimo, infatti quando mi dicono dipendenza io vedo ancora ragazzi, signori, gente che gioca cifre grosse, cioè li vedo, è che non mi permetto di dire niente, cioè se uno chiedesse un aiuto giuro che glielo darei, potessi essere utile con qualche testimonianza io darei, perché io le proibirei, cioè in toto, cioè lascerei le macchinette, lascio il casinò, uno casinò per regione, uno si deve fare magari 100, 200, 300 chilometri, parte consapevole e tutto quanto, ma così nei locali pubblici, perché adesso c'è, guardi, posso dire che c'è nei bar, nei tabacchini... No, fermola, Franco, visto che è un testimone ci è prezioso, resti in attesa un attimo, adesso devo dare la linea per l'informazione della borsa. Franco a nostra disposizione, insieme a Fabio Felici e agli altri ospiti, ci sarà anche un giocatore pentito che ci racconta l'iter, così se no teorizziamo e basta. È uno che ci è passato e ci dice come ci è passato. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024, cerchiamo di capire qualcosa sul fenomeno del gioco d'azzardo in Italia, sulle slot machine. Abbiamo visto finora dei punti di vista abbastanza contrastanti, persone che vedono il gioco d'azzardo come una terribile calamità da fermare, da bloccare, da impedire, da coprire e da chiudere, come uno dei tanti motivi di perdizione dell'umanità. Altri come Fabio Felici, che è in collegamento con noi, che dice che è una maniera come un'altra per svolgere un'attività commerciale, lo Stato ci prende dei bei soldi, ricordo 87,8 miliardi che entrano ogni anno per il cosiddetto gioco d'azzardo, quindi è solo questione di fare delle leggi. Fabio Felici, ricordo che è direttore di Agimeg, agenzia giornalistica sul mercato del gioco. Ecco Fabio, quando senti parlare poi l'ex giocatore, la signora dell'associazione contro le ludopatie, come si riesce a fare una quadra per dare l'idea che comunque, come in tutti i paesi del mondo, esiste il gioco e possa trovarsi una via, una giusta equa via per cui si rispetti il diritto di chi vuole giocare, ma allo stesso tempo non si creino delle occasioni così allettanti di vita infelice per delle persone? Certo, questa rispondo molto volentieri, volevo solo fare una precisazione sui numeri, 87 miliardi sono stati diciamo giocati, ma poi quelli effettivamente spesi sono stati poco più di 17 perché il resto sono tornati ai cittadini sotto forma di vincite. Diciamo, se consideriamo la popolazione adulta in Italia, siamo a una media di 10 euro a settimana speso da ognuno di noi, quindi questa è quanto si spende per il gioco, quindi questo per dare le cifre corrette. Quant'è la spesa? Hai detto, scusa, ripeti. Siamo sui 10 euro a persona, se parliamo di tutte le persone maggiorenni, minorenni ovviamente per legge non possono giocare, siamo sui 10 euro a settimana a persona, 40 euro mese, ovviamente ci sarà Fabio Felice che ne spende 80, ci sarà Gianluca Nicoletti che spende 0, però la media è 10 euro a settimana per ogni persona in Italia, quindi questa è la cifra reale di quanto viene speso. Però come dicevi te, dice, dove si può trovare un punto d'incontro? Lo sai perché, Fabio, ti dico, io ho una posizione molto laica, non me la sento di dire che la slot machine sia equiparabile, che ne so, al diavolo che sta al crocicchio col forcone per tentarti. Siamo un mondo adulto, queste cose, tanto se uno non se le va a prendere nel bar, si va a giocare in rete, va a giocare in mille altre maniere. Beh, i soldi li butta altrimenti. Non me la sento di abbracciare la crociata, non mettiamo il burka alle slot machine, non è la mia idea. Non si otterrebbe niente. Col proibizionismo non ha mai funzionato, anche perché 10 anni fa questo mercato, che oggi viene diciamo così molto preso come il demonio, 10 anni fa c'era, ma era tutto illegale. Non è che ce lo siamo inventato 10 anni fa, improvvisamente esplosione di slot machine in Italia, no, c'era, era tutto illegale, era tutto mafia, camorra, Sacra Corona Unita, era tutto là. Lo Stato 10 anni fa l'ha preso, ha detto, io tolgo queste risorse, le statalizzo, le faccio mie e cerco di controllarlo per la tutela del giocatore, della salute pubblica, per questo si interviene. E poi ricordiamoci che nessuno fa un'azienda per beneficenza, qualsiasi consumo noi facciamo, non è che la Fiat ci regala una macchina, tutti ci guadagnano sopra, ci sono aziende che ci guadagnano effettivamente sul gioco, ma perché è una realtà industriale come un'altra e come tale va, non che lo Stato biscazziere, l'azzardo e tutto quanto, è tutto sbagliato. Ma il problema è, Fabio, solo per capire se diciamo il fatto che sia diventato un business in mano dello Stato, quindi in mano nostra, perché si è allargato un po' troppo il signore, scusami, ha ragione, infatti lo Stato ha previsto una riduzione di almeno 80.000 macchine nei prossimi 3-4 anni, su questo il signore ha ragione, ce ne sono troppe, a un certo punto si è persa un po' la misura, si è andato un po' al di là, troppe agenzie di scommesse, troppe sale dove si trovano le slot, troppi esercizi, per carità, su questo mi trovo pienamente d'accordo, si è un po' sbordato, ma i primi a essersene resi conto sono proprio le società, per questo lo Stato diminuirà le macchine, oggi ce ne sono circa 340.000 sul territorio, arriveremo a avercene 260.000 in 3-4 anni, perché effettivamente era troppo, su questo il signore ha perfettamente anche ragione. Che penso, Fabio, che ci sia comunque un fisiologico una fisiologica percentuale dell'umanità che comunque si rovinerà la sua vita, noi dobbiamo cercare a gioco o non gioco se la rovinerà, ecco, dare strumenti così, ma non possiamo pensare che di farci carico come Stato anche della possibile tendenza di persone a volersi rovinare la vita. Il sindaco di Anacapri, buongiorno. Francesco Cerrotta, è in linea? Sì, sono in linea. Francesco Cerrotta è il sindaco di Anacapri. Lei invece ha messo a punto un'iniziativa, diciamo, unica, forse unica, fra le più rare nel nostro paese. Anacapri è il primo comune italiano che non ci sono le slot machine. Voi non avete più il problema. Come avete operato? Noi abbiamo fatto... Allora, prima cosa, a noi è nato dal grido di allarme degli stessi giocatori e delle famiglie che si stavano rovinando con queste slot machine, e noi abbiamo fatto un regolamento che le abbiamo proibite a una distanza di 150 metri dai luoghi sensibili, vicino alle scuole, alla chiesa o le associazioni sportive o le associazioni giovanili. I luoghi di aggregazione dei giovani, ti è pensato? Sì, è bastato questo con un po' di conti che appunto nell'intero circondario del centro storico non sono scomparse, perché appunto abbiamo avuto ricorsi. C'è anche da dire che in un'isola è anche abbastanza facile, perché poi c'è il mare, più là non possono andare, quindi chiudono alla fine. Appunto hanno chiuso, ma noi, le ripeto, siamo partiti dal grido proprio dei giocatori, cioè, e poi riteniamo pure che i nostri negozi, io parlo esclusivamente del comune dell'isola, una problematica così vasta e ampia non saprei, diciamo, risultare. Non ci sono più adesso, non ci sono più slot machine, da noi non ci sono più slot machine, ma ripeto, e la gente che fa, quelli che giocavano, che fanno adesso secondo lei? Non giocano alle slot, anche perché è un fenomeno non tanto giovanile, ma di persone che magari non sanno avvicinarsi al computer, e magari, e stiamo parlando di cifre considerevoli. Ma la cosa pure che ci disturbava maggiormente, che in un negozio di souvenir o dal tabacchino o dal negozio di scarpe o di maglie ci stava questa slot, per cui il guadagno facile del commerciante, che addirittura poteva non curare bene la sua vetrina e mettere un'altra slot. Perché ormai guadagnava con la slot. Però è importante, per un guadagno, sindaco, molto facile, lo riteniamo moralmente non. Io direi che è un osservatorio antropologico interessante, proprio perché è un'isola, è circoscritto. Quello che potrebbe accadere se la deregulation andasse avanti, tutta Italia diventerebbe come Anna Capri alla fine. Lei l'ha visto sott'occhio perché è un territorio limitato e circoscritto. Io se non riesco a fare il sindaco del mio comune, non mi vorrei avventurare in cose che no, magari... No, ma io parlo come quello che conosce lei. Io come comunità, al grido dei miei concittadini e al sposare dell'amministrazione di questa, tra virgolette, battaglia, ci siamo sentiti di fare questo regolamento. Abbiamo fatto anche un referendum per vedere se i miei concittadini erano favorevoli, e sono stati il 100% tutti d'accordo, logicamente quelli che sono venuti, circa il 60% dei votanti. Ma ci sono elementi di, non so, crisi da dipendenza, le persone come che... No, noi abbiamo aperto pure uno sportello di ascolto, non ci siamo fermati, abbiamo fatto corsi con degli esperti perché avvicinavano le famiglie, i giocatori o le scuole, gli insegnanti, e abbiamo istruito, cioè è stato un percorso, non è stato quelle solite cose che si fanno dall'oggi al domani. Noi ci abbiamo messo un anno e 3 mesi per poter vincere. Diciamo, è stato un piano strutturato, pensato, immaginato, che può essere una soluzione. Però una grande città l'avrei molto più difficile. Grazie, sindaco. Sicuramente. Ezio, buongiorno. Ah, buongiorno. Ignazio Alfarano, detto Ezio. Niente, io ho telefonato perché ho sentito naturalmente l'argomento, è molto interessante. Allora, io dico solo due cose brevissimamente. Insomma, bisogna adeguarsi all'Europa, benissimo. Allora, per adeguarsi all'Europa bisognerebbe fare come in Francia, o in Svizzera, o in Germania, o in Austria, cioè istituire dei casinò dove si entra con un documento d'identità e dove possono entrare solo i maggiorenni. E naturalmente togliere tutte le slot da tutti i bar, da tutte le tabacchere. Lei sarebbe, diciamo, di cambiare il sistema. Fabio Felice, velocemente, ci dici come sono esattamente le leggi in Europa? Sono come da noi le slot machine o, come dice l'ascoltatore, soltanto in dei casi no? In Italia c'è la più grande rete del mondo controllata dallo Stato sulle slot. No, diciamo che negli altri paesi non c'è questa diffusione, quindi è difficile fare un paragone. Però non ci sono neanche leggi così restrittive, nel senso non ci sono comuni che tolgono, mettono e fanno. Quindi da noi, se facciamo caso unico proprio in Europa, anzi nel mondo, proprio per quanto riguarda anche la gestione delle normative locali su un tema di slot. Certo, in questo siamo proprio distinti. Siamo quelli che le hanno messe di più e ci fanno più soldi. Sono quelli che però dopo danno via libera anche a provvedimenti che saranno stati drastici. Probabilmente Anna Capri aveva tutti sott'occhio, il sindaco, era più facile per lui accorgersi del sistema, però ha fatto una legge. C'è un comune in Italia dove è possibile giocare con la slot machine, che in assurdo sembra qualcosa che non è un precedente che ci fa sorridere, ci fa piacere. No, sinceramente, è una limitazione della libertà, perché mi chiedo chi voleva giocare, comunque oggi è stato tolto la libertà di giocare, quindi vediamola anche dalla parte di chi sì, infatti sto ragionando in questa maniera. Comunque sì, è qualcosa che a qualcuno dà piacere, e può essere un piacere non sempre che porta alla distruzione, e non può essere fatto. Se in scala fosse applicato lo stesso principio a tutte le fonti di piacere, la vedrei veramente difficile. Ci fermiamo un istante. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Melog, cronache meridiane. .800240024. Volevo un commento da Daniela Capitanucci, che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, che ricordo che è una psicoterapeuta, socia fondatore di AND, Azzardo e Nuove Dipendenze. Riusciamo a dare un punto di vista che non sia soltanto, diciamo, punitivo, restrittivo, proibizionista rispetto? Perché io penso che debbano esserci le slot machine per chi ci vuole giocare, ma non deve essere una cosa così invasiva perché poi la gente ci si rovini la vita. Ma mi sembra che tutti gli interventi convergono su un unico punto, e cioè che c'è un problema di sistema distributivo. Il giocatore, ma non solo lui, no? Diceva, se fosse un casinò per regione probabilmente la situazione sarebbe differente. E Felici diceva, noi siamo unici per la polverizzazione nel territorio delle offerte di gioco, e quindi come dire, facciamo caso a sé. Allora, io credo che il problema sia questo: la penetrazione nei mondi di vita è una novità. Che cosa faceva prima chi voleva giocare, prima del 2003 chi voleva giocare? Che cosa faceva chi prima del 95 voleva giocare d'azzardo? Doveva andare da qualche parte per giocare d'azzardo. Oggi chi vuole giocare d'azzardo, ma anche chi non vuole più giocare d'azzardo, penso ai giocatori patologici che cercano di contrastare la loro dipendenza, ce l'ha sempre sotto gli occhi, ce l'ha sempre sotto il naso. Per cui, come dire, davvero credo che si possa convergere su rimodulare il sistema distributivo. Ha sentito il giocatore pentito, ha detto sì, sono pentito, si è rovinato la famiglia, ha perso la famiglia, i figli, esatto, la moglie, però dice quando c'ho il resto del caffè le infilo nella macchinetta. Ecco, questo è una cosa estremamente pericolosa, perché il sistema di payout è uno schema di rinforzi che viene, come dire, deciso a monte, ed è uno schema di apprendimento di un meccanismo psicologico che si chiama il condizionamento operante, il condizionamento classico. Per cui attenzione, perché è un po' come la brace sotto la cenere. Per carità, non sarò io certo a dire al signore di non giocare, lui è libero di fare quello che vuole. Certo è che esporsi a uno stimolo come quello di metto il resto del caffè quando ho perso tutto, forse può essere un qualcosa di giocare un po' col fuoco. Gli rimette in circolo i neurotrasmettitori che stanno lì addormentati e gli ricomincia, sì, tutto il meccanismo. Non è detto che cominci in quel momento, però certo è che per una persona che ha perso il controllo al gioco d'azzardo un tempo, anche giocare saltuariamente può essere un problema. È la stessa ragione per cui i preti ci dicevano non guardate le immagini sconce, perché poi sì, lavorano dentro, è chiaro, dal loro punto di vista era esattamente la stessa cosa. Clara, buongiorno. Clara. Io telefono perché sono sorella di un ludopate. Ludopatico, sì, esatto. E lui negli anni ha sempre nascosto questa cosa e chiedeva soldi sempre a mia mamma, che fra l'altro è deceduta qua ad ottobre, quindi si è trovato parecchio in difficoltà. Ma la mamma non si chiedeva come mai questo figlio chiedesse tanti soldi? Pensava fosse in crisi di lavoro, lui non manifestava mai nessuna emozione quando chiedeva i soldi, diceva che era senza soldi e lei... Quindi com'è finita? Com'è finita? Andiamo al punto. È finita che lui adesso vive nell'appartamento dove viveva mia mamma, che è intestato anche a noi. Lui praticamente adesso noi l'abbiamo lasciato senza soldi. E che fa? Non lo so. E giocherà con le biglie e con le figurine? Una figlia, perché noi non gli diamo più soldi. Adesso per il momento gli stiamo pagando le bollette. Gli avete tagliato il cordone dei soldi, è chiaro. Franco, perché? Buongiorno. Franco. Pronto, buongiorno. Non lo so, è un problema di famiglia, più di tanto. Franco, buongiorno. Buongiorno, senta, io chiamo da Lecce e ho una tabaccheria. Oh, perfetto. Perfetto. Quando sento parlare di ludopatia, si parla solo di slot machine. Però vi posso assicurare che nella mia tabaccheria, come tante altre tabaccherie, il gettito delle slot è marginale rispetto agli altri giochi. Faccia qualche nome, così sentiamo poi Felice. Tipo il 10 e l'8, i gratta e vinci, le scommesse. Quindi poi, se voi andate a leggere i dati, vedete che i dati di alcuni giochi che non vengono nominati quando si parla di ludopatia è molto, ma molto più alto del gettito dato dalle slot. Fermo un attimo, un'informazione interessante. Fabio Felici, corrisponde in realtà a quello che dice l'amico tabaccaio? Ma diciamo che fino ad oggi, quando si è parlato di ludopatia, e non esistono dati ufficiali, non si sa se i ludopati in Italia sono 1,60 milioni, quindi c'è chi dice 12.000, chi dice 6 milioni, chi dice 250.000. Sembra una forbice abbastanza ampia per poterci troppo avere... ampia per capire effettivamente la dimensione del fenomeno, perché oggi non c'è uno studio regolare. Ma se uno è dipendente da gioco, se io gli tolgo la slot, probabilmente potrebbe andarsi a rovinare con le scommesse. Quindi sai, questo si spalma la dipendenza, non è solo la slot. Quindi è vero, si può spalmare su altri giochi, però è difficile individuarli, perché la persona dipende quello che ha sotto mano, magari la ricevitoria sotto mano o un'agenzia di scommesse, si rovina con uno o quell'altro, ma non si può identificare, non si può dire che gli altri giochi siano peggio delle slot machine. Secondo me è sempre la persona che fa la differenza. Ma noi abbiamo parlato poco stavolta del gioco in rete, come se le persone che stiamo osservando questa mattina, Fabio, fossero persone che non hanno l'alfabetizzazione necessaria per andare in rete. Tutti pensionati, anziani, gente che non sa nemmeno che basta aprire un computer per continuare a giocare. Esattamente, esattamente. esattamente. Il mercato del gioco, ricordiamoci, è molto controllato, perché io per giocare online devo comunque dare il codice fiscale, il mio documento, mi posso autoimporre dei limiti, perché ci sono anche degli operatori che possono farti fare delle autolimitazioni, quindi tu, volendo, nel momento in cui sei cosciente, puoi anche decidere quella settimana, se spendo più di 100 euro bloccatemi voi. Quindi diciamo che sul gioco online l'Italia anche sta molto avanti, abbiamo oscurato 5.000 siti illegali, però è vero, basta un computer per poter continuare a giocare, quindi anche la limitazione delle slot dentro i bar, accendo un computer, gioco online alle slot, quindi poco cambia. Sì, però evidentemente la parte più evidente del problema della ludopatia sono persone pensionati, persone anziane o persone che non hanno una grande alfabetizzazione per poter andare anche nell'alto versante. E questo è lo zoccolo duro delle persone di cui stiamo parlando questa mattina, padri di famiglia che lavorano, che trovano questa unica forma di seduzione. Angelo, buongiorno. Buongiorno, niente, io chiamo perché ho avuto l'esperienza di mio padre, che purtroppo lui ha sempre lavorato, grande lavoratore, ha smesso di lavorare, poi abbiamo avuto una disgrazia anche in famiglia. Era un po' giù e si è tirato su con cosa? Con le slot machine? Mia insaputa, esatto, lui si è buttato a capofitto in queste cose e io purtroppo lo sono venuto a sapere troppo tardi, quando ormai si era speso un sacco di soldi e ho dovuto... Ma dove andava a giocare suo padre? Che voglio anche immaginare un po' la situazione. Ma io me ne sono accorto, perché dopo ho iniziato a capire troppo tardi, come dico, l'ho seguito e l'ho scoperto a delle slot, andava in tabaccheria, li spendeva, aveva preso questo vizio, non riusciva più a staccare. Purtroppo dopo io ho dovuto coprire anche i costi di queste spese che lui ha fatto, perché oltre a spendersi tutto quello che lui metteva da Ma quanto si è bruciato, in termini concreti, quanto si è bruciato più o meno suo padre? Moltissimo, sopra le 150.000. 150.000 euro a botte di 2 euro per volta con la slot machine. Beh, il problema è proprio questo, come avete visto, ci abbiamo girato intorno, ma è una fetta di popolazione particolare quella più esposta, appunto i signori come il padre del nostro ascoltatore, che si è giocato 150.000 euro a botte di pochi euro per volta perché era un po' giù, era depresso. Alla prossima.